dire, se metto questa radio, magari metto una 5 ottavi, magari, sicuramente rispetto a magari, cambia la ricezione che è più forte, capito? Con questo magari lo sento più basso. Già. E funziona così, funziona, cambia la ricezione, sì. Capretto. Eppure qua in linea d'aria Graziella, dove è lui, dovrei prenderlo bene, dovrei sentirlo bene, dai, non così basso. Ma magari l'antenna è troppo piccola, ce la fa sfogare lì. Porra! Che altro niente altro si può girare le balle? Ecco. Capito cosa ti voglio dire anche. Va bene, dai, piano piano ci attrezziamo. Spero che sia la volta buona. Io sento Galliera, lo sento bene anche. Lo sento Santiago, sono Santiago 3, Radio 3. Hai sentito da Cristian, ha detto che lui ti sente bene. Oh, Daniele. Ehi Anto, aspetta. Guarda adesso, meglio mi senti. Adesso sì, ma c'è un piccolo innesco sotto. Ha detto adesso sì, ma c'è un piccolo innesco sotto, ha detto. Lo so che c'è un innesco. C'è un'altra radio accesa, capito? Io sono andato di parecchio, Oh vedi, anche con l'amplificatore sta tirando fuori. Ma quello è un problema tuo. No, io non ho problemi, la verità, lo tiro fuori benissimo. Non ho problemi. Ma c'è un secondo. Vedo. Là. La pallina a mascolino. Secondo me sia un po' più basso di segnale, lo sai. Oh, Daniele, c'è qualcosa di strano. È freddo, Anto, è freddo. Non sto uscendo neanche, aspetta. Meno di 5 watt sta uscendo. Che sarò là. Ecco l'altra, stavo uscendo con 2. Ma Cristian però ti sente, sei tu che non riesci a riceverlo. Perché lui ti sente. Lui ha la buddi lì, ma non ci sono problemi. È quello che ti sto dicendo, quanto non è che ho fatto la 5 ottave, è tutta un'altra musica. Capito? Cambia totalmente sia la ricezione che in trasmissione. Già lo so, mettiti la gimpole che vanno bene. Capito? Già ho capito anche tu, già ho capito. Che adesso devo vedere come organizzarmi e come fare il tutto, capito? Perché da questa parte, vabbè che quella già non ha problemi, anche se la metto a quella altezza come questa già spinge lo stesso, quella a 1 metro e qualcosa di altezza sta già viaggiando. Viaggia sì, è una bella antenna quella lì. Sì, sto pensando di cambiarmela, di mettermi quella io direttamente, appena che avrò la possibilità, perché non è che costa 50 euro una nuova antenna, ma l'antenna costa un bel di dinami, però una 7 ottavi e spinge. Lo so, però meglio della Game Master sicuramente lo è. Lascia perdere. Capito? Quell'antenna è derivazione militare. È stata fatta anni addietro. Capito? È stata usata dai militari. E poi è stata messa per la 27, per 12 metri. Ma un po' neghissa è meglio la mia anche. C'è proprio una Game Master. No, sto parlando della J-Pole, che è quella l'antenna dei secoli fa, si può dire. Eppure adesso è stata rimessa in circolazione e fatta anche per gli 11 metri, capito? Mentre la Game Master non dice, capito? Già, lo so, già. Io per sicuro non la prendo. No, non mi è mai piaciuta. Io, vabbè, mi sto facendo pensiero a quella, ma poi no. Poi mi trova. Ma già Paul ho detto, no, no, lascia stare. Che 10 volte meglio la J-Pool. Già non credo, tu vorrai che quando la metti ci sarà una bella differenza. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Sto aspettando che faccia entrare l'altro terrazzo. E così, per dire, prendo 6 metri di palo e li piatto dentro, capito? Li fisso e ci metto lì sopra. E vero che pompa a voce. E a voglia tu. A voglia, allora sì, già faccio quei collegamenti. Scappa. Ordina, perché è una bella antenna, Poi quella lì non ti dà problemi stazionari, non ti rompere balle. Ma se sia resistente al vento e tutto va bene, ma sto cercando che c'ho una passa e tu. Sì, ok, dai. Cristian! Come sei arrivata a casa tua? Chiappa, è un bel basso sei. Vabbè che non abbassa, ma chiappa. Purtroppo buddi bassa. Cioè, molto bassa come zona. Ma già ti tiro fuori lo stesso, è importante che senti a me. Eia. E andava. Ok, dai, io vado a farmi la doccia. Ci sentiamo dopo, Cri. Dai, che dopo chiudo, anch'io a farmi la doccia e una bella cena, dai. Ehi, Cri, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, anche dai, anche da soli. Ciao. Anto, ci sei? Facendo la doccia, Antonio. Ciao Sara, va bene, la sono qua, dai. E beh, come va Lu? Va. Andando sta. Ah, vero. Mia Daniele, mi. Comunque dobbiamo venire alla corrida, siamo in 6 amici. Dove vai alla corrida? Sì, a Sara stavo dicendo io. No! Ma ci vuoi, sa? Che vergogna! Dai, che tu ti diverti più di noi, fidati. Grazie, ne frega. Ma io non vedo niente dietro le quinte. Non ci vedi, sei di fronte al palco, capito? Sì, però... Sai com'è? Tranquillo che ti diverti, vedrai. Sono nuove, come si dice, nuove esperienze. Avanti Daniele, avanti mio che vado in bagno, cambia la pagliolifera. Vai Lucarie, buttaci tutto. Gava, bomboli. C'è bombolina, quello è un bombolino. Bombolino è un attimo a farsi la doccia. Ah, bombolina, si è trasformato adesso. Bene, bella, va bene. Ecco, Lugarie! Hello! Ciao ragazza, guarda se il signore è sempre lo stesso da te. Sentiamo con i bricci. Buoni bricci, sei buoni. Gava. Lu! Sto collegando il cavo, ne ho smontato l'antenna laggiù. Stavo staccando il cavo. Va staccando, stavo levando dallo zaino. Va, mi dove c'è la Noli, vedi Unico e PL. Guarda, senti qualcuno che la vuole, sei nel caso, la... come si chiama? La bomba di Nicola Grande. Funziona benissimo. E voi era un bombo, che non era sul tetto, peccato, se no guarda. Ehi, se sento già, ti faccio sapere. Già funge, guarda, con l'antennino. Che la cosa pure, è un profeta. Ehi, c'era sempre lui lì, già, ne ha due mi sembra adesso. Tipo una bomba e un'altra... un'altra per macchina, ne ha. C'è cenato, No, lui. Quasi pronto perché non c'ero, ero su in sedia a Osi, ho capito, sta facendo roba. Hai visto l'antenato dove sono piazzata, dove ci avete le ambulanze? Cosa lu? Antonio l'antenato, non hai visto dove c'è la piazzata, dove lavora? Ah, sì che l'ho vista. Domenica ero... non questa, la scorsa. La scorsa domenica già l'ho vista bene, che ero lì. Chieve. Che io, questi piedi di gas, per carità, guarda. Guarda, ma giù buca tutto, un casino, va, Ho detto lui, guarda mi se il segnale è sempre lo stesso, adesso che è caldo. Vai, prova. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, la peppina fa il caffè. Sì, sul più da più 30. Quindi è sempre uguale, dai. Come la fredda, no? Perché ho sentito cose poco fa. E stavo arrivando a basso e... No, quella era fredda, invece sono una mezza sincope. E che è? A chi te l'ha arrivato a basso? No, da Claudio, che l'aveva acceso da qualche minuto, due minuti. E l'aveva scaldato ancora, capito? Io sempre lo stesso, se guarda un po'. 9.20 a picchi positivi c'è Lugariello. E si conferma. Meremeta. Questa antenna è mezzo sorda, cavolo, porca miseria. Boh, ce ne sono antenne, poi dai, diciamo, mia, dondorra. Cazzo, ma ti vuoi che mi hai detto, Gabi? Cazzo, di mettere una scatola di tonno, questo cane, ero con gaglietta, mi. Una volta solo la giornata gliene do da mangiare. Ma no, peggio del mio, che cavolo, è un posto senza fondo. Mangia sempre e vuole sempre di più, ne vuole, è una cosa allucinante. Vabbè, pesa pure quelli 30 kg. Ma lei è sterilizzata, capito, come che stai grassando? Ho capito, ma lui pesa quasi quanto un cristiano, anzi quasi come un cristiano pesa. Che cane è il tuo? Il mio è un pitbull, cosa con un labrador. Quello massiccio allora. Cavolo, li tirano i culi in vita e ti bruci le mani. E lui anche va, dice. Addirittura. Addirittura Scillu. Cazzo è carne dura, Poi è bravo, sì. Ah, un pezzo di pane, no, perché sia il mio, ma. Ma quanto è bravo e scemo. No, anche lei è bravissimo. Poi ovviamente chi non conosce la paglia, ma lei è pazza. Stai sfociando il letto, te. Cos'è sta cosa? Connection. Che cazzo è sta cosa? Non mi vado in trappola. Oi. Beh, quella domanda non... vabbè, però non ce l'ho fatta a controllarla lui. L'ho letto il messaggio, ma poi tra una cosa e l'altra... non ce l'ho fatta. Vabbè, tanto ormai è scaduta. Non ce n'era, Daniele. Io ho chiesto anche a... un amico, che è consigliere, ma lui te l'ha fatto. Fatto di fare la domanda e basta, e vabbè, speriamo di niente. Se non ti può aiutare, non ti può aiutare, io ce devo fare. Pazienza, non si può fare niente. Guarda cosa ti dico, ti rispiego la sushi, insomma che possa servire. E lo conservo così com'è. Se la piglia in culo. No, sai cos'è Daniele, ce l'hai un po' di baracchino, no? Averne due e poi già un coglione. Poi non trovi, già non trovo tempo per stare con lei, che poi quello baracchino non c'è più tempo da voi. Fuori di casa. Ma dico, non trovi tempo, sai, con la persona, capisci? Già, adesso non trovo poco e niente. Allora dice, sono stanco, penso alla biglietta, sono un minore, sì. C'è un iPhone lì, mi dà che lo voglio mettere in moto, vedete? Non aggiungare, cioè, non so spazio, io spazio qua non ne ho. Cioè, sicuramente avrai un po' di spazio a casa tua. Ma cosa, lui che sembra un accampato qua, che ha dovuto fare il suo palco e forse qua, se deve mettere qualcosa di lunghezza, e cosa sarà? Un metro e qualcosa di larghezza. Se li avrei agganciati, ma non me la fuori, c'ho il mobicom anche. Quello lì, per carità. Casino, ecco. C'ho quello modificato, quello fatto in soldi. Mi interessa. Tanto usa. Lo telefono lì buttato a cosa? Poi non ha tamo, non è più entrato, uno di lì punti. Sono fatto più sentire. E che adesso? Bella! E beh, Bongolina, fatta la doccia! Veglia, adesso ho fatto un po' di fiago, vai in alto, e via. Non potevi dire venire per la parte della schiena? A te ne andi. Daniele mi chiama sempre, vero Daniele? Allora, se non viene guai, cazzo, la parte della schiena lo picchio, cazzo. Allora, mi picchia pure, cazzo, oltretutto. C'è il frustino via, tu, quello bello massiccio, se non viene, poi sono dolori. E secondo me è il vostro mamma, la chiave. Oh, te ne andi. Oi, oi, oi. Mi hai detto però, Bobolì, a proposito, che non questa, la scorsa domenica ho visto la tua antenna come l'ha piazzata lì, che ero l'amico Frizzi. Già va bene, già va bene. E ora sa che una coppa la appena più alta, me. Sì, va bene. È un po' di QRM ciò però, cavolo. Sono convincente che non sia neanche si male, se a volte a giorni non ne ho, a volte c'ho QRM. Sono convincente che non sia neanche si sistemi d'allarme, della marasoce, delle ambulanze, che mi danno fastidio. Ma cosa sistemi d'allarme? Quella è mamma terra che te le sta mandando le QRM. E cosa fate? Cosa non fa, dovresti dire, cosa non fa, no cosa fa? Chissà, è tutta canta strana, ce ne è inventato un buco di macchine, ma fa di là. Oh, yeah, lascia perdere, che fa in radio non si può dire. Ma già lo so, dite che fate neghissi cose strane. C'è un disogo entrato. Hai detto, se la bomba non ti porto sempre io. Questo cosa cazzo era ne prende, hai detto. Chi si, come ti si chiamano queste cose strane che fate? Ma, non la mara, che si cose che fate è da. Ehi, qualche erba strana stavano fumando. No, aspetta, non mi viene neanche il nome, non mi viene. Lo yoga, mi pare. Lo yoga stavano facendo e poi c'era il contorno dopo lo yoga, per rilassarti. Ma chi si coltiva già in Maria Luisa? No, quelli si fanno Maria Giovanna, altro che... Sono un po' di cose strane, viso. Cioè, chi ti ha inventato, chi ti ha guadagnato un po' di dinamica a Rumisi? Sei inventato tutti quanti queste cose strane, che? Oh, yeah. Le tre di lui, ci andiamo alla mamma terra, lui. La mamma terra, ci andiamo. La mamma terra? Sì, mamma terra. Che sarebbe essere? Oh, e come è tutto un programma, lui. Ma io ho sospettato pure che secondo me fa in cacche orga anche il vetretto. Quelli, lui, sono quelli vedono gli UFO, ma non arrivano a una certa temperatura e sono vedere di UFO. Ma dici che quando ti canti che c'è erbe strane, dici che pianta mi padre. Secondo me mi va in mezzo mancante, chissà niente. La verità è. Quelli ce le fumano tu, ancora le comprese ce la fumano. Sono che vanno il trombone, vani. Ancora peggio se vanno il trombone. Sono che tipo che macchia il fumo con temperature modificata. Ehi, quelli c'hanno l'armile modificato, c'hanno. Devi vederla a due che sta proprio dente così. E prendiamo le erbe, tutte le tisane, fatte delle cose naturali. Tutti che ti dice cose, non può fare la bernacchia, ma di. È come quel film di Verdone, è troppo strano. Ma secondo me fa i soldi così, fa. Cioè praticamente pigli del barburo un all'altro. Cioè, chi su yoga, che c'è, da qui vanno andare che si drodione, che si facciamo per essere medici, cioè che sanno di medicina naturale, che marazzotti è. Cioè, per carità. Cazzo vedevo si gatti Natale, io gli ho detto mille volte, si può venire l'arancio una tassa, fare cose. Ho detto mille volte qua non va bene questa cosa, si rovinano le pannelle. Dito viaggio, no, lo battene sempre. Riprendi Lugaria, ci sei? Sì, stavo ascoltando un messaggio per un lavoro, aspetta. Ehi, a pensare fossi andato anche tu da questi qua. Hai detto Luca è già partito. No. Devo fare un lavoro di un'antenna, solo che a quanto pare il capocondomino o l'amministratore, vabbè non so, quello che comanda l'area, non vuole che si metta un'antenna nel terrazzo. La faccia in curva mi sta di abuso. Ti interessa un Samsung Galaxy Note 10 da 256 GB, è perfetto come nuovo, nessun segno di usura. Regato, Giovanna Muretto. Se te lo metti il prezzo te lo cancello. Ma ti fa con gli occhiali per caso? Un po' grande di età. Tu l'ho cancellata. Posso, gli ho cancellato il posto. Non lo so, Daniele. E furavali? Ma sono andato al prezzo, poi sai cosa succede? Che chiede la gente e arrivano le notifiche. C'è vero, già cartellino rosso, espulso in un secondo. Secondo me non ha tutti i torti. No, già è giusto, che insomma. Quando tu vedi una cosa metti subito al prezzo, no? Vendo, prezzo, che interessato nei contatti, punto. Cavolo, che senso hanno mettere il prezzo? Vedi che hanno tutti prezzo e trascillano. Perché molti vogliono chiamarle. Però c'è anche il pro e il contro, perché la gente rompe anche le balle, capito? Cioè magari metti quel prezzo di telefono, me lo dai per quanto, me lo dai per... C'è anche il pro e il contro, bisogna pure capire le certe cose. Questo compito mi ha fatto una schermata blu, segno cattivo. Ma... Tutte sempre andando in bemmi, sempre, la verità. Ogni tanto fuggia, mi si bloccava, Però la verità sta funzionando bene, non... Ma non ne ho mai fatto. Tu pensa che ti ho messo anche la disk SSD. Cava, sempre mangiando quel PC, sai. Andiamo tutti da mamma terra a fare il zulù. Ah no, facciamo un paio di sedute lì, tra l'altro poi vediamo gli UFO in giro per Sassari. Ehi, da Muggia di Medienda, quanto mi devo dare? Anche se vanno a Marchi, mi pare, chissà. Qui sei peggio. Tenete tutti i canti di furore con questi collaboratori che vada, poi che andando a fare un, non si fa bere un conto me. Ogni amare che li venga, va a girare le balle. E non vedi niente che dà retta a questa persona qua ancora. Cioè Abbiamo messo solo un macchio, insomma. Peggio per loro, tu. Peggio. Allora, tisane, erbe, c'è erbe naturali, tutte altre cose. Ma questa è sempre pianta in disastro. Ma secondo me mi serve allucinogena. Non si chiamerebbe mamma terra, se no. Ma molte volte questa cosa qua è coperta, ma secondo me è la marijuana sotto. Oh, yeah. Località, e vabbè, peggio per loro, insomma. Cosa vuoi ti dica? Cara gara, e bei ugarieri. Questi magoni così ce ne sono, solo un valongonto ce ne fai, bu. È fatto in busciata, il mago di nascimento, Certo, ma io non dico, ma come fa? Ma io la colpa anche quei cosi che hanno scoperto da poco, ti ricordo se c'è notizia. Io la colpa la do chi ci va. Perché se io che non vi grido da essi gazzardi che fanno queste cose, io non ci vado e non mi spendo i soldi. È così, Anto, è così, gente, poveraccia, si vede persa in determinate situazioni, quindi qualunque cosa tu gli dica, la fate disperata, loro ci credono, capito? È un casino, e poi ci rimpiangono, quelli si arricchiscono. Sì, io, cioè chi dà te lo fa, poi se tu ci credi, io la colpa comunque la do a questi qua, non posso darla a Edda, cioè se tu mi credi a queste cose, alla fin fine, se tu mi hai speso i soldi, se tu Marco, io dico che non ci sono persone sane in giro, perché io che sono, mi ripeto di essere una persona sana, se io la sento solo in televisione, quindi si incazzate, dico vai ammazza di tu e gli sta propaganda. Ma io la penso così. Boh. E si conferma, veramente ragione. E dove ti dica tu? Peggio per loro, peggio per chi ci va. Capito. Oh, attimo, sto controllando, già sono qua, non sono scappato ancora. Sto controllando le mail per vedere se mi ha risposto per quanto riguarda una visita. Ok. Ehi, Alugarie, facci pure. Scappa. Io non è proprio niente fuori in gabbo. Bene. Purtroppo. Io non credo a nulla, dopo sarei fatto a babbo. Lo stavano accusando di cose che se tu mi porti questo, come ti chiama, questo indumento di quella persona, io ti dirò chi è. Invece hai sbagliato tutto. È sensitivo, il magone. La magona. Mi ha detto sì, è lui che ti ha fatto questa cosa, ma non è manco questo, che l'ho fatto apposta. Ha detto vai, ci vuole da guru tutta questa marca di candela. C'è solo una volta, è successo un casino. Allora, va bene, dai. Oi. Vedo per chi ci crede, tu, dove ti dica. Ma per carità, di tutto e più ne ho visto, di gente troppo credula alle cose. Le cose che bisogna avere la realtà, no, che ci gozzi, che no. Non servono a niente, non servono. Fanno i solo piani, bambola niente e basta. Come certe cazzate che molti vanno a raccontare. Oggigiorno, prima di aprire la bocca, bisogna essere documentati delle cose. Perché le cose non si sanno. Apro la bocca, ma io parlo anche in altre cose, senza sapere neanche cosa stanno dicendo. E si conferma, ed è vero. Beh ragazzi, io ci vado a mandicare, dai, che qua è pronto. Ci ascoltiamo dopo. Vai a mangiare, vai. Saluta la signora, mi. Sarà fatta e contraccambia. E va bene, va bene. Dai. Faccese intanto. Ciao, ciao. Ciao Anto, ciao Luca. Ciao a tutti a casa, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Io ti chiedo. Le chiedo un coso, un affanculo. Quando massaggio. Di prenotare un prelievo per il 20 maggio, cazzo, loro me lo stanno dando il 9 marzo, non è possibile, perché mamma deve fare l'attacco il giorno 29 mi pare, non mi ricordo, vabbè, deve fare il prelievo praticamente il 10 giorni prima, non a marzo, quindi va a maggio. Vabbè, comunque te l'ha prenotato, sì. Non hai capito, no? Lo sto spostando, c'è un attimo. Ok, fai, fai, non c'è problema. Che reghiere. Vabbè, mi lo stai oggiando. Dimmi, Luca, che sto parlando con Sara. Sì, ho detto, oggi meglio stai. Sì, sto bene oggi. Devo chiamare domani per forza per annullare quel coso. Mi c'è col foglio, c'è un attimo. Cazzo, la matrice è vintage. La matrice pratica di Cotentuero, è una cosa della pittorra. Questo si chiama un rigotto, ma un rigotto solo, ma questa è una cosa la bugia, mi dà. Per carità. Ruggiamane così, ruggiamane. Scusa un attimo, che sto chiamando una persona. Andiamo, andiamo. Ehi Luca, ci sei? Luca, ascolta, ci sentiamo domani, ci sentiamo, va bene? Io vado a nanna.